un francese, un italiano, un tedesco e uno spagnolo si ritrovano a Parigi. Non è una barzelletta, sono i ministri delle finanze riuniti per salvare l'euro. Però fa ridere lo stesso.